Carabinotta, carabinotta, una grazia vorrei da te. Dimmi, dimmi che grazia vuoi, una notte a dormire con te. Vieni che la mezzanotte quando mamma e papà non c'è. Vieni, vieni a mezzanotte quando mamma e papà non c'è. Mezzanotte già suonata, o pinotta vieni ad aprire. Mezzanotte già suonata, o pinotta vieni ad aprire. Sono in stanza in camiciola, dammi il tempo per rivestire. Sono in stanza in camiciola, dammi il tempo per rivestire. Non importa che tu ti vesta, tanto bionda tu piaci a me. Non importa che tu ti vesta, tanto bionda tu piaci a me. Metti su la sottana bianca, quel che manca ce l'ho con me. Metti su la sottana bianca, quel che manca ce l'ho con me. Rosa fatte apposta per ben ballare. Metti su le scarpette rosa fatte apposta per ben ballare. Metti su il quartetto nero, le tue forme fai risaltare. Metti su il quartetto nero, le tue forme fai risaltare. In testa un cappellino che a passeggio ti porterò. Metti in testa un cappellino che a passeggio ti porterò. E poi quando saremo fuori un bacetto io ti darò.